Il Gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti. Ebbene, oggi sicuramente cucineremo per un'ora, perché parleremo di un fenomeno molto, molto intrigante, un fenomeno che è balzato alla ribalta. La cucina non è mai stata così nelle hit parade come in questo momento in questo paese. Molti chef, pur essendo bravissimi, erano pochi conosciuti, oggi sono dei veri e propri personaggi. Insomma, non si parla d'altro. MasterChef ha lasciato una scia di interesse davvero enorme. Gli ultimi tempi si parlava forse più di chi avrebbe vinto MasterChef rispetto a chi avrebbe vinto le elezioni. Ebbene, io però mi sono posto sempre un problema guardando queste trasmissioni, non solo MasterChef ma anche le altre. Devo dire la verità, non tutti i giorni e non sempre, però ho dato un'occhiata perché sicuramente era un dovere anche di informazione. E mi sono chiesto, ma la televisione è buona o cattiva maestra in cucina? Questo credo che sia un interrogativo, perché ormai è diventata così importante che ci si pone anche questo argomento, visto che ci sono tantissimi giovani in questo paese che ormai aspirano a diventare cuochi. Avete sentito i dati degli istituti alberghieri, più 35% di giovani che vogliono fare i cuochi. E allora io ora voglio chiederlo a molti che sono stati protagonisti, però voglio prima di far intervenire Carlo Cracco, che ormai è diventato credo il personaggio number one della cucina, del personaggio, come ho detto è sempre stato un ottimo cuoco, non è che avesse bisogno di questa trasmissione per diventare famoso come cuoco, lo era già e come, ma da una frase di Gualtiero Marchesi, che è stato il maestro di Carlo Cracco. Marchesi ha scritto: imparare a cucinare guardando la TV è come imparare a far l'amore con la pornografia. Carlo, tu cosa ne pensi? Ti potrei rispondere che Gualtiero Marchesi nell'87-88 era su Rai 2 tutti i pomeriggi. Ah, bene, quindi poi sentiremo appunto Gualtiero Marchesi, anzi lo chiamiamo subito Gualtiero Marchesi. Al di là di questa battuta che è così frizzante per iniziare questa trasmissione, tu pensi che si possa imparare? Cioè, MasterChef non è una scuola di cucina, ovviamente, è un racconto, è un talent show. Ecco. È una storia che è legata alla cucina, ma dove la cucina è un tramite, no? Perché poi è la storia di chi la fa, cioè di questi concorrenti che si mettono in gioco e sono disposti a tutto pur di vincere o di arrivare comunque a vincere delle prove, no? Ecco. Però credo che, scusami se ti interrompo Davide, però la cosa più bella di questo momento, e che pochi forse magari lo coglieranno, è che è un'opportunità incredibile per tutti. Se oggi si parla di cucina, dovremmo cercare di sfruttare questo momento, ma non sfruttare a livello commerciale, ma per costruire delle basi ancora più solide, per cercare di dare un senso a tutto quello che gira intorno al mondo del cibo, che è tantissimo. Partiamo da Slow Food e finiamo alla scuola alberghiera. Per cui, se tutto il settore cresce in maniera sana, con l'aiuto anche della televisione, non c'è nulla di male. L'importante è non pensare solamente a se stessi, ma pensare a tutto quello che rappresenta il mondo della gastronomia, che è tanto, tanto, tanto. Gualtiero Marchesi, buongiorno. Ciao Davide. Tu hai scritto una frase fantastica, perché hai scritto questo: imparare a cucinare guardando la TV è come imparare a fare l'amore con la pornografia. Ma il tuo allievo, Carlo Cracco, ha detto che anche tu cucinavi in televisione. No, dunque, intanto precisiamo che io non ho detto questa frase, mi è stata messa in bocca da qualcuno, ma io non l'ho mai detta. Guarda che è scritta sul tuo Facebook, eh? Non so, qualcuno l'ha messa, ma non certo io. Ah, ecco. Io poi non guardo Facebook, per cui non sono aggiornato. Bene, ma no, dimmi. Volevo sapere, ma secondo te la televisione è cattiva o buona maestra in cucina? È cattiva se fa delle cose brutte, è buona se fa delle cose belle, come tutte le cose. Ma si può imparare a cucinare in televisione guardando le trasmissioni? No, io credo proprio di no. Credo che si possa essere stimolati a fare questo mestiere, senza poi contare che all'atto pratico si incontrano poi tutte le difficoltà che si incontrano in tutti i mestieri quando si affrontano seriamente. Io credo che qualcuno ha voluto dire che la cucina non è un'arte, e invece io sostengo che la cucina può anche essere un'arte, e se può essere un'arte, credo che richieda un grande mestiere, una grande professionalità, un approfondimento, una conoscenza della materia, quella che io non vedo mai in genere sul piatto, molto raramente. Si cerca lo spettacolo piuttosto che la verità. E poi, come tu sai benissimo, l'arte è semplicità, e se si cerca la semplicità c'è il caso che si riesca anche a fare delle cose fatte bene. Bene, Gualtiero, però stai attento al tuo Facebook, quindi di non farti mettere in bocca altre cose, perché questa frase devo dire che è anche molto interessante da poter discutere comunque. Ti dirò che io non guardo Facebook, non guardo niente di quelle cose. Bene. Per cui non è possibile che l'abbia messa io, ecco. Ma chi te lo scrive, però? Il punto è questo, stai attento che te lo scrive. Grazie. Gualtiero, però volevo chiedere a Carlo Cracco una cosa. Carlo, ma questi ragazzi di Masterchef, dal primo giorno, arrivando all'ultimo, a cominciare da chi ha vinto, dall'avvocato, sono cresciuti diciamo come cuochi? Beh sì, come diciamo esperienza di cucina sì, se pensate l'avvocato ha vinto due prove difficilissime dove tutti hanno sbagliato, che è quella con Icino Massari, che era una prova veramente difficile, era una prova di pasticceria. E l'unica che fece una cosa veramente degna del nome fu appunto Tiziana, l'altra con Ducasse, dove veramente noi eravamo estranei alla prova perché eravamo in sala ad aspettare e lui li guardava mentre lavoravano, e anche lì mi ricordo la frase quando è uscito dicendo adesso arriva il piccione, Maurizio ha detto che è perfetto e si è messo a ridere, e in effetti poi il piccione era tutto fuorché perfetto. Questo ti fa capire comunque come anche una persona esterna alla fine può arrivare anche per la prima volta a giudicare una persona su un piatto in base a come lavora, come si presenta, come si comporta. Il fatto è che questi ragazzi, io gli dico ragazzi, ma insomma poi chi più chi meno, hanno tutti una grandissima determinazione, questa è una cosa molto bella, però bisogna sempre ricordarsi che la cucina è una cosa molto complessa, molto lunga, non è un processo certo di due ore, di due giorni, di sei mesi, che sono come gli stage in cucina, no? Che sono più o meno la stessa cosa, no? C'è stato un momento in cui tutti vanno a fare gli stage, cuochi, professionisti, e in due mesi hanno imparato tutto. È vero, hai ragione. Non è possibile, hai ragione. È una cosa che è assurda, no? In televisione vale ancora di più, certo, perché poi non sono nemmeno professionisti, perciò figuriamoci. Bene Carlo, io ti ringrazio, devo passare la linea alla regia, grazie tante e a voi. A presto. Il gastronauta. Eccoci di nuovo, stiamo parlando appunto di cucina, stiamo parlando se si può imparare con la televisione a cucinare. Sentiamo Melania da Pescara, una radioascoltatrice. Buongiorno Melania. Ciao, buongiorno a tutti. Prego. Allora, io volevo solamente dire che sono d'accordo sul fatto, sulle trasmissioni televisive di cucina in TV, le vedo da un sacco di anni e purtroppo devo dire che sì, si può imparare a cucinare trasmissione, ma come diceva anche il signor Cracco, non si può assolutamente imparare il mestiere, imparare a stare dentro una brigata. Mi sono appassionata negli ultimi anni all'alta cucina, all'alta gastronomia, grazie a un grandissimo chef qui abruzzese, e devo dire che ho capito che non c'entrano assolutamente nulla tutti i programmi che vanno in onda negli ultimi anni con la realtà di questo mestiere. E vorrei veramente che in televisione, purtroppo, ci sono tante illusioni, specialmente per chi vuole fare questo mestiere, che come sappiamo negli ultimi anni la domanda sta crescendo tantissimo, vediamo anche a livello statistico con le scuole alberghiere, i ragazzi vogliono fare questo questo mestiere, ma perché lo vogliono fare? Perché purtroppo in televisione c'è un'illusione pazzesca che sia un mestiere facile, che sia semplice. Bene, grazie di questo tema, grazie di questo tema per togliere l'illusione. Lei ha perfettamente ragione su questo. Sentiamo Aldo dalla provincia di Padova, un altro radioascoltatore. Buongiorno Aldo. Buongiorno Davide, io sono Aldo di Due Carrare, sono il titolare del ristorante Letizia. Senti una cosa, benissimo, è tutto bello, tutto buono quello che si fa in televisione, perché la gente magari impara anche così a conoscere le materie prime, impara magari anche, però voglio dire che la professione è un'altra cosa. Io con mia moglie e la mia famiglia andiamo avanti da tanti anni in ristorante, però c'è anche un grande sacrificio dietro. Vorrei che questa gente si rendesse conto che finché è un gioco è tutto bello, tutto, però dopo voglio dire che la realtà è un'altra. Siamo d'accordo. Va a giocare in televisione, ma è bello, insomma, è bello. Siamo d'accordo, però bisogna anche distinguere. C'è MasterChef, che appunto è un racconto, è un talent show, mentre ci sono altri, che poi vedremo, altre rubriche di cucina che veramente insegnano a fare delle ricette, quindi non sicuramente certo. Un corso di cucina, ma questo. Ma lo voglio chiedere a un altro protagonista di MasterChef, che è Bruno Barbieri, che lui di gavetta ne ha fatta tanta. Quindi voglio chiedere, Bruno, ma secondo te attraverso questo boom della cucina, con tutte queste trasmissioni televisive, forse non è che molti si illudono che non si debba fare la gavetta per diventare cuochi e chef? Ciao, buongiorno Davide, ciao. Senti, guarda, ho ascoltato quello che i tuoi radioascoltatori hanno detto. Io devo dire questo, fino a un po' di anni fa, cioè prima che Gianfranco Vissani andasse in televisione a raccontare con Lina Verde, con tutta una serie di programmi, il mestiere del cuoco non se lo, tra le virgolette, lo prendeva in considerazione nessuno, cioè proprio zero, era un mestiere per gente che non aveva voglia di far niente e tutte queste belle cose qua. La televisione ha dato il via a tutta una serie di storie, di situazioni, di racconti. Poi è normale che ci sta il programma, il talent show, ci sta il programma che racconta il cibo, ci sta il gambero rosso, ci stanno un sacco di cose. Voglio dire, la televisione ha fatto, secondo il mio punto di vista, ha raccontato attraverso programmi di cucina, ha raccontato una storia italiana. Poi ti può piacere, non ti può piacere, voglio dire, insomma tutte queste cose. Quindi io sono convinto che sia un bene. È normale che poi comunque dietro questo mestiere ci sono altre storie, perché sono anche convinto di una cosa, che chef si nasce e non si diventa. Dei Gianfranco Vissani, dei Carlo Cracco, degli Igles Scorelli, di tutti questi chef, non è che ne nascono tanti. Cioè tanti ragazzi possono diventare dei bravi cuochi, ma dei grandi chef è difficile. Beh, certo. Bisogna guadagnarsela, bisogna fare la gavetta. Voglio dire, forse è stato questi programmi forse sono stati anche un bene, hanno stimolato la gente, i ragazzi a fare questo mestiere. Ti voglio dire questo, se noi andiamo a fare un'analisi, da Venezia arrivare a Pesaro, sulla riviera adriatica, in tutti i ristoranti italiani, sai quanti cuochi ci sono che arrivano dalla Romania, extracomunitari, marocchini? Questo perché? Punto. Perché? Chiediamoci perché. Quindi certo. Voglio dire, poi c'è una è normale che c'è una distinzione, è normale che poi comunque alla fine questo mestiere duro regge chi veramente ha voglia di farlo. Capisci, Davide? Certo, certo. Rimani con noi, Bruno. Ora abbiamo con noi Benedetta Parodi, che è una protagonista della cucina in televisione. A lei voglio chiedere. Buongiorno. Voglio chiedere, la televisione è buona o cattiva maestra in cucina, secondo lei? Ma secondo me è buona maestra. Intanto saluto anche Bruno, che è venuto più di una volta ospite da me. Però ecco, diciamo che facciamo subito una grande distinzione tra gli chef e tutto il mondo che è quello di Bruno Barbieri, dove non basta certo guardare un programma televisivo e anche forse partecipare a un programma televisivo per diventare dei veri chef, e il programma che faccio io, dove invece suggerisco a una persona che fa cucina casalinga come mangiare meglio, in maniera più divertente, sfiziosa, magari anche un pelo più raffinata. Allora, al mio livello sicuramente io posso insegnare tante cose. Diciamo che a livello di Bruno sicuramente stimolerà ragazzi giovani e pieni di volontà magari a intraprendere questa carriera meravigliosa, però per diventare uno chef bisogna studiare, non basta guardare la televisione, giusto Bruno? Giusto. Assolutamente d'accordo su quello che hai detto, Benedetta, quindi veramente lo dico davvero col cuore, la televisione ha stimolato tanta gente, però fare questo mestiere è un'altra cosa, voglio dire... Bruno, vi interrompo perché abbiamo una radioascoltatrice da Biella, okay. Sentiamo Stefania da Biella, buongiorno Stefania. Sì, buongiorno, io volevo mettere l'accento sul problema igiene di queste trasmissioni, perché io vedo code di cavallo che girano sopra i cibi, riccioli biondi che passano, ma e nessun cappellino in testa. Se un commesso di un ristorante eccetera non osserva quello, può passare dei guai. E come mai in televisione invece passano queste cose, gente che mette le mani in pasta poi riprende a cucinare? Non lo trovo molto igienico. Benedetta, lei cosa ne pensa di questa... Ma questa cosa è assolutamente ridicola, nel senso che se in un ristorante è ovvio che uno deve mettere la cuffietta, deve mettere i guanti, ma lei a casa sua, signora, quando prepara la pasta asciutta per suo figlio, non le basta raccogliersi i capelli in una coda di cavallo, non le basta lavarsi le mani prima di impastare una pizza? Ma mi sembra una cosa assolutamente ridicola. Io faccio televisione, non mi posso presentare come una panettiera con la cosa in testa e... Cioè, voglio dire, io non insegno norme igieniche per un ristorante, cucino come se cucinassi per i miei figli. Sentiamo un altro radioascoltatore, Stefano Fagioli, da provincia di Cremona. Buongiorno Fagioli. Beh, ciao Davide, certo ci conosciamo. Sì, certo. Ciao. Bene. Beh, io, a parte che seguire e intervenire dopo questi grandi nomi... Beh, tu sei un bravo cuoco, fai televisione, quindi... Beh, perché? Io ho fatto sì televisione e devo dire che... Allora, ci sono programmi e programmi, quello che fa la Cristina Parodi è un tipo di programma, quello che fa Cracco e Barbiere è un altro tipo. Concordo comunque con quello che hanno detto loro, che è difficile, cioè si diventa cuochi sul campo, passando ore in cucina, seguendo maestri. Poi... C'è un fenomeno strano in Italia che voglio portare all'attenzione ed è questo, si vendono milioni di libri, e credo che il fenomeno della Parodi sia uno degli esempi più importanti, ci sono tantissime trasmissioni televisive, però la gente a casa cucina sempre meno, compra sempre piatti pronti. Allora chiedo a Barbieri, tu cosa ne pensi di questo? Beh, questa è una regola un po' British, in Inghilterra questo succede spessissimo, però io sono convinto di una cosa, che nell'ultimo periodo la gente ha ricominciato a cucinare a casa, probabilmente voi per tutta questa situazione, crisi, non crisi, storia, non storia, politica, non politica, la gente a casa ha ricominciato a cucinare, io vedo che i ristoranti fondamentalmente si svuotano, si stanno un pochino svuotando e mi dispiace questo, ma non tanto perché sono cari o la gente non è, perché la gente ha voglia di ricominciare un po' come era negli anni, fine anni 70, di comprare le cose al mercato, poi fare una cena a casa con gli amici, è anche un po' più, sono momenti della vita, un po' come nel mondo, diciamo così, anche della moda, no? Certo. Sono dei passaggi, delle situazioni, però con questo non è che la gente non cucina più, io vedo a casa mia, vedo i miei amici, la gente che mi invita fuori, mi chiede di andare, tu sei un esempio molto particolare, cioè molta gente appunto che ormai, cioè, le statistiche danno che i piatti pronti sono in grande crescita, questa comunque, è una realtà. Comunque guarda Davide, che la gente attraverso anche i programmi della Parodi, i programmi Masterchef, la Clerice, storia, la gente ha ricominciato un po' a cucinare a casa, con più voglia, si mette alla prova. Guarda, ti interrompo perché abbiamo Enzo Vizzari che tra l'altro è in auto e quindi potrebbe cadere, voglio sapere lui cosa ne pensa, se la gente cucina di più dietro questi insegnamenti della televisione. Buongiorno Enzo. Buongiorno a tutti, ma io credo che... lo ha detto bene Carlo Cracco, ho sentito solo l'inizio, l'aspetto positivo di tutto quanto sta succedendo è che cresce l'interesse per la cucina e per tutto il mondo che sta dietro la cucina e quindi anche per i mestieri legati alla ristorazione in generale. Poi evidentemente non si impara di certo vedendo la televisione, ci mancherebbe altro, però la curiosità è solleticata, qualcuno appunto, come dicevi tu, che compri poi piatti pronti o semi lavorati, è portato a cucinare di più in casa, lo diceva adesso anche Bruno Barbieri. Quindi diciamo, ecco, male non fa. Togliamoci dalla testa che questo possa davvero rappresentare l'avvio di tante carriere di cuoco, perché come è stato detto, è inutile ripeterlo, non si diventa cuochi con la televisione, però male non fa, diciamo, ecco. Bene, io devo dire che non voglio leggere molti sms, sono arrivati tanti, molti sono offensivi e io prego di non inviarli perché ovviamente non li leggo, e c'è una reazione del radioascoltatore in genere molto molto negativa nei confronti delle trasmissioni televisive, come dicevo molti sono anche sboccati ed altro e non mi va di leggerlo. Comunque devo dire, devo riconoscere questo fatto, c'è una reazione del pubblico negativa verso le trasmissioni televisive e chi fa trasmissioni televisive. Una cosa è certa, al di là delle critiche, il cibo in TV piace, attrae, incuriosisce e così gli spettatori ne fanno una buffata, si appuntano ricette e magari imparano anche qualche tecnica. E per chiudere questa prima parte del Gastronauta vorrei ricordare una battuta di Crozza sul tema che stiamo affrontando oggi. In televisione ci sono più di 20 programmi che parlano di cucina. Non si capisce se paghiamo il canone o il coperto. Il Gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di la televisione buona o cattiva maestra in cucina. Bene, abbiamo con noi, dicevo, Luciano Tona, che è direttore didattico di Alma. Bene, Alma è una scuola molto seria, Luciano è un personaggio molto severo. Allora voglio chiedere, Luciano, tu cosa ne pensi delle trasmissioni televisive? Possono insegnare a cucinare o dare dei buoni consigli? Dare buoni consigli è da sempre esistita la scuola per dare buoni consigli, perché sicuramente la formazione è più importante, quella che viene data nelle scuole. Certamente una grande motivazione, un grande movimento, un'attenzione al progetto formativo può essere data anche attraverso la TV. Esistono canali specifici dedicati alla formazione. Sicuramente i programmi di intrattenimento non sono l'ideale per insegnare a fare cibo, perché il cibo è un alimento che deve fare bene al corpo e quindi non può essere un canale di intrattenimento che può veicolare il modo giusto per produrre e per lavorare un prodotto, per ottenere da questo un nutrimento. E questo è il valore che ha messo sempre in campo Alma come scuola, no? Il cibo è parte integrante della nutrizione umana. Uno dei primi documenti tracciati da Auguste Escoffier ancora sui tempi era proprio che il cibo deve creare benessere, e questo è fondamentale. E quindi la scuola, una scuola come Alma, porta in campo tutto il suo sapere, la conoscenza non solo professionale per quanto riguarda le pratiche di cucina, ma anche di conoscenza proprio dell'alimentazione attraverso gli studi scientifici per quanto riguarda la nutrizione e l'atteggiamento, come manipolare il prodotto per evitare contaminazioni, quindi la sicurezza alimentare. Sentiamo Paolo da Milano, un radioascoltatore. Buongiorno Paolo. Sì, buongiorno, buongiorno. Innanzitutto volevo fare i complimenti a Barbieri, che è sempre un piacere guardarlo, lo ammiro tantissimo come chef ed è stato una delizia vederlo fare il suo involtino alla trasmissione di Masterchef. Bene, non facciamolo arrossire, andiamo alla domanda. Certo, e poi ecco, volevo spezzare una lancia a favore delle trasmissioni televisive relative alla cucina, che vanno prese così come sono, nel senso sono intrattenimento, fa piacere guardarle, aiuta a distendersi e magari si può anche imparare qualche cosa, ecco, non Bene. Devono avere la pretesa di avere la scienza infusa Bene. E di essere il non plus ultra del gourmet. Grazie, e io volevo chiedere a Benedetta Parodi questo, guardando le trasmissioni televisive, un po' tutte, non la sua in particolare, ma faccio un discorso generale, vedo una carenza, diciamo, di far conoscere il prodotto alla gente, cioè si parla sempre del cucinato. Io credo che forse parlare molto più di prodotti e spiegare i prodotti, spiegare i territori potrebbe essere un fatto molto positivo per la conoscenza. Ma io mi rivolgo a un pubblico che lavora tutto il giorno e che preferisce non comprare piatti pronti, ma comunque dedicarsi con amore alla cucina. Allora io faccio piatti abbastanza veloci, spesso uso i surgelati, che non penso sia assolutamente una cosa disdicevole in una cucina casalinga, e sicuramente do buoni consigli perché ho esperti molto preparati che si occupano per esempio del pesce, dando consigli precisi e attenti su quali pesci usare, pasticceri, ospito grandi cuochi. Quando cucino io, è ovvio, io mi dedico a questo tipo di persona e li avvicino alla cucina. Vi assicuro, non sapete quante giovani spose o ragazze o mamme che non sapevano cucinare mi ringraziano, perché adesso tornano a casa e cucinano. Certo, io continuo a ribadire e lo ribadirò sempre: il mondo dell'alta cucina e il mondo della cucina di tutti i giorni è diverso e così deve essere. Non è che uno guardando me può diventare uno chef, però chi guarda il mio programma sicuramente trae degli spunti, che poi lui voglia partire o lei dallo spinaccio fresco che ne so, colto nell'orto di Vaterapesca, e chi invece va a comprare quello surgelato, questo dipende dal tempo che ha, dalla voglia che ha di investire sulla cucina. Però i miei metodi sono sani e sono provati, la mia cucina è una buona cucina, non è un'alta cucina, però io penso di sicuramente dare un apporto a chi mi guarda, perché do idee veloci, insegno che è meglio cucinare che comprare un sugo pronto, per esempio, che è meglio impegnare anche solo 7 minuti, perché io alla fine del programma in 7-8 minuti metto insieme una cena. E questo è esattamente quello che penso tutti vogliamo un po' insegnare, no? Agli italiani che non hanno più voglia di cucinare, che anche in 10 minuti bene. Si può cenare bene. Quindi facciamo subito una bella separazione. Io non insegno agli chef, non sono una chef e non lo voglio essere, se no io 3 milioni di copie non le avrei vendute. Certo. Okay? Bene, come può, come anche l'Artusi non era un cuoco. Certo, anche l'Artusi quello, non era un cuoco. Quindi... Io ho il premio Marietta, sì. Voglio dire, l'ho ricevuto con bene. Grande. Ecco, e proprio perché neanche Artusi era uno chef. Certo. Bene, ma aveva 2 chef che cucinavano per lui, però. No, eh? Aveva la signora Marietta. No, c'era anche un cuoco. Sì, vabbè, però c'era... la signora Marietta è quella che poi è rimasta nel c'era cuore, anche un cuoco livornese. Paese di Forlimpopoli, infatti c'è questo premio prestigioso. Sì, sì, no. Perché nasce dalla cucina casalinga. Certo, certo, certo. Ma diciamo che era una cucina borghese assai diversa, che dava molta, ma molta attenzione sicuramente alla materia prima. Sentiamo Antonio dalla provincia di Monza Brianza. Buongiorno Antonio. Volevo dire che io sono abbastanza favorevole alle trasmissioni in TV della cucina, anche perché magari si riesce a cogliere anche quello spunto per poter fare delle cose. Però hanno un grosso difetto, secondo me, che non informano fino in fondo. Ad esempio, ho visto una trasmissione dove dicevano, esaltavano le qualità delle acciughe marinate, tutto senza dire che andavano abbattute prima. Bene. Oppure adesso c'è di moda la cucina sottovuoto. Io ero a una fiera e c'erano migliaia di casalinghe che compravano i sacchetti e tornavano indietro lamentandosi, dicendo che scoppiavano. Per cui non c'è una informazione fino in fondo in queste bene. Trasmissioni. Grazie Antonio. Ma sentiamo Simone Rugiadi, appunto, che è protagonista di diverse trasmissioni. Cosa ne pensa della telefonata di questo radioascoltatore? Buongiorno Simone. Sì, buongiorno a tutti e mi scuso anche per il rumore di sottofondo, perché sto per prendere un treno. Non si preoccupi. Allora, non bisogna generalizzare, perché io in realtà proprio sul fatto della anasakis, cioè quindi dei parassiti eccetera, sto molto attento, soprattutto nelle trasmissioni anche dove io non cucino direttamente, tipo Cuochi e Fiamme, che conduco, ma quando si tocca, diciamo, alcuni prodotti cerco sempre di sottolineare pregi e difetti, sia di quelli più costosi sia di quelli meno costosi. Però sono sempre per pochi ingredienti, cucinare in 10 minuti è la trasmissione con cui ho iniziato, diciamo, e ho sempre mantenuto questo filone per portare le persone a casa a mettersi ai fornelli e evitare buste sorpresa surgelate. Però la materia prima per me è importante. Ah, ecco, nel questo, senso che questo esatto. Sembra. Esatto, nel senso che prima sentivo parlare di spinaci o di qualsiasi altra cosa, c'è una bella differenza se è surgelato o se è fresco, e oltretutto se è fresco di supermercato, soprattutto la frutta che poi è maturata in cella, o se è fresco di raccolta, quindi di fruttivendolo, orto, mercato, dove la frutta viene raccolta a maturazione, se è a chilometro zero, se è italiano, cioè questo è importantissimo, perché cambia tutta la vita. Beh, sulle materie prime siamo assolutamente d'accordo, anzi io credo, come dico, bisogna fare molta più informazione, perché gli italiani non conoscono le particolarità del loro territorio. In molti territori c'è gente che non conosce i prodotti di quel territorio, e credo che oggi la materia prima sia fondamentale per la nostra alimentazione. Ma lo chiedo a Luciano Tona. Luciano, ma secondo te la cucina del surgelato può servire a imparare a cucinare e quindi a avere le cognizioni anche della materia prima e del prodotto? Può servire, però io ritorno a fare l'esempio della scuola qui di Rigo. sembra banale, ma è forse l'esempio più importante. Noi insegniamo a lavorare esclusivamente i prodotti freschi, perché prima in assoluto devi conoscere il prodotto, la difesa della materia prima. Non si può fare cucina qualsiasi, casalinga, alta cucina, cucina di bistrò, senza sapere cosa hai davanti, senza saper scegliere l'ingrediente fondamentale. Allora, questo è il primo valore di un manipolatore, insegnare questo mestiere partendo dal fresco. Poi, in caso di necessità, si può utilizzare anche il surgelato, perché tante volte utilizzare surgelato viene disdegnato. In realtà il surgelato, se è trattato molto bene, è un grandissimo prodotto, però prima devi imparare come si lavora e cosa ti trovi di fronte e che risultati ti può dare e come salvaguardarlo. Poi da lì puoi fare tutto. Insegnare l'alta cucina serve a poter eseguire tutti i processi. Io faccio sempre l'esempio della piramide. Quando tu insegni alta cucina e impari a fare la cucina, sei in alto alla piramide e riesci a vedere tutti i quattro lati. Ma se hai imparato nella base più sottile delle cose, quindi sei proprio in fondo alla piramide, giù sotto, riuscirai a vedere il tuo lato solamente, non vedrai gli altri tre. Quindi è importante questo, conoscere la materia, impararla nel modo corretto, che sia alta o bassa, mai conoscerla bene. Grazie Tona. Voglio chiedere a Simone Rugiadi, la televisione può essere buona maestra in cucina? Bellissima. Perché finora avete parlato di fresco e surgelato, no? Sì. Va bene. Però attenzione, che surgelato? Perché ad esempio io i molluschi non bivalve, quindi polpi, seppie, moscardini, a volte anche il totanetti, magari li uso surgelati, cioè decongelati, anche perché bambini mi rendono anche più morbidi, ma mi prendo un surgelato italiano, mediterraneo, cioè anche lì la scelta è fondamentale, perché io vedo spesso persone comprarsi dei gamberi, dei crostacei surgelati, ma che poi magari sarebbe meglio girarla l'etichetta e più che i disegnini sopra leggersi se vengono dalla Thailandia, se vengono dal Pacifico, da che mare sono pescati. Spesso questa cosa viene sottovalutata, ma no. Noi siamo quello che mangiamo e se ci mangiamo schifezze diventiamo schifezza. Lei ha perfettamente ragione, a cominciare dal pesce, perché anche il pesce fresco, diciamo, le pescherie quasi mai riportano tutte le indicazioni da dove è stato pescato e da dove arriva quel pesce. È obbligatorio, però siamo noi che dobbiamo imporlo. Lo so. Il cliente chiede, loro saranno obbligati a offrirci un miglior servizio. Bisogna rompere le scatole. Ma anche i vigili urbani dovrebbero essere innati. Grazie a Simone Rugiadi. Il gastronauta. Eccoci di nuovo, sempre a parlare di cucina e TV. Sentiamo Tina da Rimini, una radioascoltatrice. Buongiorno Tina. Buongiorno Paolini. Io, come sa, sono, come ha sentito, sono romagnola. Bene. E mia mamma mi ha messo al tagliere a fare la prima piada, non per gioco, ma per fare la piada, che avevo 7 anni. Ma io dico una cosa, cioè, è naturale, con una trasmissione televisiva non si diventa cuoco. Per diventare cuoco bisogna essere seri, andare a scuola e fare tutto quello che c'è da fare, la gavetta e tutto il resto. Però solo trasmissioni che a me, ad esempio, che faccio da mangiare da sempre, nonostante tutto mi hanno insegnato tantissime cose. Cioè mi hanno insegnato molti segreti, mi hanno insegnato, ci sono delle trasmissioni anche pur essendo giocose, sono anche abbastanza serie, che insegnano la territorialità dei prodotti. Insegnano anche a scegliere i prodotti. Bene, lei è soddisfatta, quindi si vede che sta molto attenta e segue più trasmissioni. Bene, la ringrazio Tina da Rimini. Ma io voglio ora con noi un critico gastronomico che è anche un insegnante, anche un docente da tanti anni, Leonardo Romanelli. E allora io a Leonardo voglio chiedere appunto se lui ritiene che diciamo servono almeno qualcosa le trasmissioni televisive, non diciamo ad aiutare i giovani a scegliere questa mestiere, perché è già noto, questo è successo, ma proprio a cucinare, ecco, possono servire secondo te, Leonardo? Ma secondo me, soprattutto su quei ragazzi che hanno un talento, voglia di fare, un po' incuriositi. Io lo vedo a scuola, io quest'anno ho 2 quarti, ragazzi di 18 anni, quelli più svegli, quelli che guardano le trasmissioni, poi prendono spunto e hanno voglia poi di mettersi a provare. È chiaro che poi a essere a scuola gli fa comodo, perché dopo gli faccio capire dove hanno sbagliato, gli faccio capire perché non è venuto quel tipo di procedimento. Ma io devo dire, non demonizzo assolutamente le trasmissioni televisive, credo siano sempre qualcosa che già per persone che sono predisposte a voler fare questo mestiere, ho seguito tutta la discussione, ovviamente si è detto non è tanto l'imparare, tanto però recepire stimoli che poi si possono mettere in pratica, e questo credo sia un aspetto molto importante. Beh, sentiamo Pietro da Milano, un radioascoltatore, buongiorno Pietro. Buongiorno, io telefonavo per dire che secondo me ci sono trasmissioni e trasmissioni, è inutile generalizzare, e poi molto probabilmente non ci sarà una trasmissione sufficiente per rendere una persona cuoco. Però devo dire che ce ne sono alcune buone e altre non buone. Adesso non vorrei essere antipatico nei confronti della signora Parodi, però io tutte le volte che la vedo mi innervosisco, perché vedo fare delle cose che definire pasticci è eufemistico. Per non dire poi quando presenta delle tavole con delle apparecchiature, senza sapere neanche come si mettono le posate a tavola, fa delle cose che definire di cattivo gusto è poco. E questo è solo per un esempio. Poi ci sono altre trasmissioni, per esempio, ci sono trasmissioni dove vanno cuochi, come ad esempio Sadler, dove ti fanno delle cose che sono eccezionali. Io non sono in grado, ma sicuramente chi sa cucinare bene ne trae giovamento. Grazie, grazie. Ora facciamo sentire una cosa molto spassosa per dare così un finale forse molto di allegria a questa trasmissione. Prego. In televisione ci sono più di 20 programmi che parlano di cucina. Non si capisce se paghiamo il canone o il coperto, non lo so. Escluso il tempo che gli italiani passano a mangiare, il resto lo passano a guardare come si prepara da mangiare. Il cibo è come il sesso, è bello farlo, è bello vederlo fare. Trasmissioni di cucina sono pura pornografia. Sai come avete visto come inquadrano la besciamella, come inquadrano i piatti? C'è per esempio quel programma inglese Nigella Beats, cioè, no? Fanno tutte le controluci, cioè, proprio è la besciamella che cola, è puro feticismo, no? Una volta andava di moda il porno, ora va di moda il forno. È la pornografia, cioè c'è gente che si chiude in camera di notte, va sul computer e viene beccato dalla moglie mentre sta guardando come si disossa un fagiano. Bene, abbiamo sentito così una, diciamo, una satira, la prendiamo come tale. Sentiamo Anna da Roma, buongiorno, una radioascoltatrice. Buongiorno, io sono una vecchia nonna, ho tirato su 3 figli, ho lavorato e non sapevo fare neanche un uovo sodo. Ho iniziato con la Moroni e poi adesso sto con la Parodi e riesco a fare una scena per 20 persone. Bene. Non sono delle bestie, mi dicono che mangiano bene. Bene, quindi lei, signora, è diventata cuoca attraverso la televisione. Finalmente abbiamo una cosa che stavamo cercando, quindi non è voluta. E la ringraziamo di averci telefonato, perché così sicuramente è un po' un colpimento è un interrogativo che avevamo posto all'inizio. Ma sentiamo Luciano da Roma, buongiorno Luciano. Sì, buongiorno Paolini. Le mie considerazioni sono molto brevi, due fondamentalmente. Uno è legato proprio alla guardabilità della trasmissione, cioè a me non piace molto vedere questi studi che sono in tutte le puntate sempre uguali, colorati, si vede che sono finti. Invece non vedo un programma televisivo di cucina dove invece la location sia quella che dovrebbe essere, ovvero sia il ristorante, magari con la gente che mangia i piatti che sono stati preparati. Lei pretende molto, sicuramente è un po' difficile poter spostare delle truppe e poter fare tutto in un ristorante, quindi ci sono, mi permetta, ma ci sono anche così, come posso dire, dei problemi tecnici. Leonardo, volevo chiederti, secondo te la televisione non dovrebbe aiutare molto di più a far conoscere far la spesa piuttosto che cucinare? Un po' degli elementi cardine di quello che può essere il futuro, perché fare la spesa può diventare un programma televisivo, basta che ci sia un bel lavoro da un punto di vista di autori, ma deve essere questo il messaggio che deve passare. Oggi la televisione ha questo grande compito, quello di educare educare ovviamente tenendo conto dello spettacolo. Secondo me questo potrebbe essere veramente quello che dovremmo fare, anche perché mi rendo conto di quanto In tante famiglie, lo vedo da ragazzi che vengono a scuola, quella che è la materia prima deve essere fatta conoscere da zero. Io mi diverto sempre a chiedere in quanti a 18 anni hanno mangiato piselli freschi, per esempio. Quasi tutti mi rispondono che surgelati, fino a che non sono arrivati alla scuola alberghiera, non avevano fatto altro che mangiare quelli. Quindi queste sono considerazioni da tener conto. E un bel programma di spesa, secondo me, sarebbe interessante, insomma. Quindi bene, io mi farebbe piacere. Continuo così a vedere, a leggere moltissimi sms che definiscono molti protagonisti spadellatori e non cuochi. Bene, questi sono riferimenti appunto di radioascoltatori che hanno mandato gli sms. Ma sentiamo Mirella da Brescia, anche lei una radioascoltatrice. Buongiorno Mirella. Non ho niente né a favore né contro i programmi televisivi di cucina, e qualcuno imparerà pure. Però quello che manca è l'olfatto, perché in cucina è molto importante anche l'odore dei cibi, se hai messo troppo sale, la cottura, le spezie. Adesso io sono anziana, quindi ho una certa esperienza, e le dico che manca l'olfatto. Ma lei ha ragione Mirella, ma il problema è che il mezzo televisivo è questo, non è che si può pretendere di andare oltre. Quindi ancora ci sono le scuole di cucina, quindi uno però va. Voglio dire, il limite è un limite. Leonardo, è un limite, ma non si può fare niente. Tu cosa ne pensi? Certo, poi condivido. Altrimenti possiamo dare ai telespettatori, a coloro che guardano appunto magari la bustina con dentro i profumi, quello sarebbe un po' eccessivo. Però effettivamente, guarda, mi viene in mente ieri sera una scena importante sull'olfatto, ti rendi conto di come un piatto bruciato al tavolo, altri me lo chiedevano come facevo a sapere che era bruciato, è evidente, basta annusare, ma ti devi allenare anche a quello. Enrico, sono d'accordo. Enrico da Varese, 30 secondi, siamo sul finale. Eccomi. Prego. Dunque, la televisione informa, però bisognerebbe fare in modo che la televisione dimostri anche che la cucina non ha il tempo limitato. In cucina bisogna avere il tempo per farlo mangiare. Bene. Per cui in certo momento le trasmissioni che sono così affrettate, 20 minuti per preparare un piatto, o più piatti anzi, un pranzo addirittura, sono un'esagerazione. Grazie Enrico da Varese, abbiamo chiuso. Io voglio ricordare comunque, e ve l'ho così ai radioascoltatori, questa frase che è stata inserita a quanto pare abusivamente nel Facebook del buon Gualtiero Marchesi: imparare a cucinare guardando la TV è come imparare a fare l'amore con la pornografia. Bene, una frase sicuramente, secondo me, che fa riflettere, e ognuno poi può dare la risposta che vuole. Io vi devo salutare perché anche per oggi è terminato il tempo a nostra disposizione. Quindi vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento alla prossima puntata del Gastronauta. Un caro saluto dal vostro Davide Paolini.